Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Appunto, sabato ero in Piazza Duomo a Milano, sono state molte manifestazioni anche in altre piazze d'Italia a favore dei lavoratori dello spettacolo in questi mesi in grande difficoltà. Tralasciando l'argomento in sé, di cui alcune volte qui abbiamo già parlato, andando in Piazza Duomo sabato dopo molto tempo mi ha colpito una cosa: la difficoltà che tutti facevamo, me compreso, a non salutarci abbracciandoci, baciandoci o semplicemente dandoci la mano. Vedendo qualcuno che conoscevo, se riuscivo a riconoscerlo nonostante la mascherina, cosa già non facile, mi veniva naturale andare verso di lui o di lei e abbracciarlo, come dire: siamo ancora qui nonostante la segregazione di questi mesi, abbiamo ancora voglia di salutarci. E invece saranno state le camionette della polizia che incombevano, sarà stato il terrore di non essere confusi con quelli della Movida, che agli occhi di qualcuno sembrano diventati peggiori dei terroristi, sarà un rinnovato senso di responsabilità bianco, rosso e verde sviluppatosi a forza di pizze margherita fatte in casa. Insomma, sarà quello che volete, ma restavamo lì sul filo dell'abbraccio a un metro di distanza con quell'innaturale saluto a colpi di gomito. Ci davamo di gomito fingendo soddisfazione per un gesto che invece è di una tristezza senza pari. Salutarsi col colpetto di gomito è triste come bere la birra analcolica. E poi non so quanto serva il colpo di gomito, come nel campionato di calcio tedesco, dove in area di rigore si sta pressati uno contro l'altro, fiato a fiato. Ma poi quando si segna bisogna darsi il colpetto di gomito per evitare il contagio, sembra una presa in giro. E allora ero lì, in Piazza Duomo, e ho pensato a quanto tutti noi fossimo frenati. Dei corpi che si muovevano col freno a mano, come quando lo dimentichi tirato in macchina. Se insisti, la macchina si muove lo stesso, ma senti che c'è qualcosa che non va. E dopo un po' si sente odore di bruciato e devi chiamare il carro attrezzi. Ecco, noi in questo momento stiamo andando col freno a mano tirato e non so quanto ancora potremo circolare senza bisogno del carro attrezzi. Sabato pomeriggio ho avuto l'impressione che molti di noi fossero al limite, che stessero ormai quasi per chiamare il soccorso ACI, dove ACI in questo caso significa anime chiaramente incatenate. Come se, quando conosci una persona con la quale senti di avere qualcosa in comune, non venisse naturale cercare la sua mano e fossi invece obbligato al massimo a camminare gomito contro gomito. Avvicinare le mani, intrecciarle, camminare mano nella mano, è come togliere le catene a quelle anime che finalmente possono cominciare a svolazzare, prendendo in giro anche il coronavirus che fin lassù non può raggiungerle. So che non è così, ma voglio pensare che il virus si è indebolito perché, oltre a tutto il resto, oltre ai motivi scientifici, ha visto un po' di quello che c'è dentro di noi e ha pensato: in fondo non sono poi così male questi italiani, anche se qualche cazzata ogni tanto la fanno, ogni tanto, spesso, però dai, c'è di peggio. E allora il virus ci lascia un po' in pace e va magari a bere una birra analcolica prima di sparire completamente. Io sono sicuro che se provasse davvero la birra analcolica, il coronavirus se ne andrebbe a gambe levate e del vaccino non ci sarebbe neanche più bisogno. È un'idea che suggerisco ai virologi per poter tornare a incrociare le nostre callose, sottili, affusolate, rugose, meravigliose mani. Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Da oggi appunto si può cominciare a circolare liberamente in tutta Italia e ci si può anche fermare. Cioè, non è che io possa solo circolare per tutta Italia senza fermarmi mai. Posso per esempio andare da Milano a Bussolengo, in Veneto, per dire, prendere un caffè e tornare indietro. Anzi, penso che lo farò anche in compagnia, in macchina, uno davanti e uno dietro, per fare colpo chiederò a una ragazza: vuoi venire con me a prendere un caffè, per esempio, a Bussolengo? Potrebbe essere una proposta accattivante. Perché in questi mesi avevamo perso completamente il contatto con la quotidianità, quella che fino a marzo aveva contraddistinto la nostra vita. Così, poco alla volta, alla faccia di un virus che non si sa bene quanto sia rimasto aggressivo, forse sì, forse no, forse uguale a prima, forse è cambiato. Sembra le critiche nei rapporti di coppia: sei cambiato? No, sei tu che mi vedi diverso. La stessa cosa col virus, ma noi intanto stiamo finalmente ricominciando a riappropriarci delle nostre vite. Restano ancora tante restrizioni e di questo periodo resteranno tante stonature. Per esempio, l'uomo che era da solo sulla spiaggia e veniva inseguito dai droni e inquadrato da telecamere come se fosse un delinquente, oppure i due ragazzi che si baciavano e venivano multati come se stessero attentando alla sicurezza nazionale. E poi ieri invece immagini di assembramenti senza distanze di sicurezza durante alcune manifestazioni, immagino senza multe per i partecipanti. Mi viene allora da chiedermi se ha senso continuare a proibire gli spettacoli. Si dirà, sì, ma quella era una manifestazione politica. Sì, dico io, ma per quanto mi riguarda preferisco rischiare anche di prendere il virus per vedere uno spettacolo, che so, di Shakespeare, che non per partecipare a una manifestazione con qualche leader o presunto tale. Quello che mi infastidisce è che, come sempre, in Italia, quando fa comodo, si trovano alibi e anche le regole vengono aggirate. Quando invece a muoversi è il singolo runner, che magari corre sulla spiaggia, allora tutti i questori in Italia possono scatenarsi e far applicare la legge del più forte in modo ferreo e con la soletta approvazione delle telecamere di qualche trasmissione compiacente. La sgradevole sensazione è che il virus stia diventando come la legge. Uguale per tutti, che però non è uguale per tutti, perché ci sono avvocati diversi, giudici diversi. Ecco, la stessa cosa avverrà per il virus. Per le attività ritenute socialmente accettabili, come le manifestazioni politiche, per esempio, gli assembramenti si riterranno socialmente accettabili e quindi, ma sì, tollerati. Per altre, come gli spettacoli, assolutamente vietati, perché fonte di pericolosi focolai. Senza naturalmente certezza alcuna, visto che ormai su sto benedetto virus si dividono in modo evidente e anche sconcertante anche virologi e scienziati. L'unica cosa che ho capito è che se voglio tornare a salire sul palco in tempi accettabili e senza eccessivo distanziamento sociale, mi restano due possibilità: farmi prete e celebrare messa, oppure mettere in piedi un partito e convocare una manifestazione, altrimenti dovrò aspettare fino a quando in Italia del virus non ci sarà più alcuna traccia. Non perché avremo sviluppato l'immunità di gregge, ma perché lui, il virus, sarà emigrato, perplesso e stressato dalle regole cavillose dell'Italia e dai comportamenti ondivaghi di noi italiani. Placebo. Pillole agrodolci senza effetti collaterali. Ieri il Premier Conte è tornato a parlare, lo dicevi anche tu, del ponte sullo stretto di Messina. Al di là del fatto che prima o poi questo ponte si faccia, il ponte è appunto uno degli argomenti che ciclicamente tornano nella nostra vita. Io ricordo che se ne parla da sempre. Ho 53 anni, ricordo il primo giorno di scuola quando mia madre mi accompagnò col mio grembiulino nero davanti al portone d'ingresso e contemporaneamente sui mass media si parlava del ponte sullo stretto. Ricordo la finale dei mondiali di calcio del 74, Germania-Olanda 2-1 e in Italia si parlava del ponte sullo stretto. Ricordo quando andavo da mio zio Vasco a vedere in TV Giochi senza frontiere e si parlava del ponte sullo stretto. Ricordo quando prendemmo un cane che chiamai Cochise in omaggio al capo degli Apaci e si parlava del ponte sullo stretto. Poi successero molte altre cose nella mia vita privata e in Italia, le spalline degli anni 80, Sabrina Salerno, il drive-in a Italia 1 e anche cose drammatiche, per esempio l'inizio del Grande Fratello, Fatih Terim allenatore del Milan, i Jalis che vinsero il Festival di Sanremo e il dibattito sul ponte sullo stretto non ci ha mai abbandonato. Ormai il dibattito sul ponte sullo stretto è diventato come uno di famiglia, è come un parente lontano, si sa che c'è e si sa che ogni tanto quel dibattito torna, come un parente che vedi solo a Natale, come uno zio che è andato a vivere all'estero e ogni tanto si fa vivo, fa parte della nostra tradizione italiana. Oltre che festeggiare Natale, Pasqua, il 25 aprile, il 2 giugno, almeno per affetto sarebbe utile istituire il giorno del dibattito sul ponte sullo stretto. Sappiamo che non si farà mai quel ponte, però ogni tanto è bello parlarne, ci siamo affezionati e se sparisse per sempre in fondo ci dispiacerebbe. E allora appunto istituiamo una giornata in cui per legge se ne debba parlare.